siamo in missione per conto di Dio. Quattro mattino di Luca Telese. Reach out, touch faith. Voi siete nel traffico, siete nel bagno, siete nel letto, ma siete svegli. Ho visto che si girava e poi ho visto questa palla entrare nell'angolo del destro della porta e sono rimasto basito, sono rimasto incantato. Non ci credevo, io non mi accorgevo più di quanti caffè stavo bevendo e quindi a un certo punto mi sono venute anche le palpitazioni. Allora, hai dei poteri gufotici? Perché io? Ieri ti sei scagliato violentemente contro la Perosa e oggi che... colpita e affondata, Oscar. Il governo la ritira. Speriamo in fretta in un Piemonte libero. Ma stiamo impazzendo! Piemonte libero, Tirolo libero, Lombardia libera, Molise libero. Molise libero, la parodia di oggi. Ma viva Orietta Berti, Gramellini, non storcere il muso, lo Stato non ha sempre ragione. Non avrei mai detto che Orietta Berti era una bandiera del liberismo! Guardi, è esattamente il contrario di quello che dice lei. Il cittadino così sceglie perché i nomi sono scritti sulla scheda. Sì, sono quando, già scritti lei, alla sovietica. Io resto convinto che la rete e il cellulare siano il più grande rincoglionamento di massa della storia dell'umanità. Viva la Catalogna. Sì, sì, viva la Catalogna. Dai, dai, facciamo l'anarchico catalano che ma ti non viene faccio bene. L'anarchico. No, no. Ma io guardi, i corni in casa, se lei viene a casa mia, una volta le offrirò un caffè, vedrà che c'è proprio una teca piena di corni che io conservo gelosamente, no? Si dice che non bisogna farli vedere perché sennò si scaricano. Invece a me piace proprio caricarli dell'invidia altrui. Reach out and touch faith. E abbiamo appena abbandonato un weekend di spensieratezza per entrare dentro una nuova fase storica. Il voto in Germania, il voto tedesco, il quarto mandato della Merkel e il trionfo però delle forze della destra radicale. La Germania svolta, svolta a destra e forse questo segno, questo suono, questa nota dominante peserà anche sulle elezioni italiane. Allora buongiorno, buongiorno popolo dei già svegli, benvenuti 349-238-6666 per le vostre impressioni, per i vostri messaggi, per il vostro racconto. E buongiorno al direttore dell'Espresso, Tommaso Cerno, buongiorno. Buongiorno. Allora, un primo commento a caldo perché oggi la giornata sarà molto puntata su quello che è successo in Germania. Cambia qualcosa per noi? Beh, per noi cambia sempre qualcosa, nel senso che gli italiani se non vota qualcun altro non voterebbero praticamente dagli anni 40, perché questa è la nostra storia. Quindi ogni elezione cambia, poi che cosa cambi non si capisce, perché in Germania è avvenuto qualcosa di ampiamente prevedibile, anzi il voto dell'estrema destra per qualcuno doveva essere anche più grande. La Merkel ha vinto, ma come era normale, ha vinto in stanchezza. Noi la scorsa settimana avevamo intitolato la copertina sulla Germania letargocrazia, c'è un voto sbadiglio. La grossa coalizione, ovviamente essendo stata più coalizione che grosse, avrebbe potenzialmente una maggioranza, ma è una maggioranza che ha stancato i socialdemocratici, che ha fatto capire loro che il partito più grande finisce per mangiare quello più piccolo se i due si somigliano e che il sistema proporzionale non ti consente più, vista l'aspettativa che hanno i popoli e la poca capacità che ha la politica di rispondere alle domande, soprattutto degli ultimi, di governare insieme e poi presentarti in campagna elettorale come se tu fossi diverso dall'altro. Tutto questo insieme di cose, più che modificare le elezioni italiane, ci dà una lezione molto evidente. Se noi dobbiamo stabilire con quale testa ci approcciamo al voto, perché il problema italiano con questa legge elettorale, ma anche con le modifiche che vogliono fare, che sono modifiche di piccoli trucchetti sopra un volto ben chiaro, che ha un'espressione già ben chiara, ci mettono a essere l'unico paese occidentale in cui non esiste la possibilità di una vittoria di un singolo. Infatti io trovo davvero, come dire, assurdo che in queste ore stiamo lanciando candidati premier in un paese che ha scelto di non avere un candidato premier. È un bel paradosso. Parte non ci consente neanche l'alleanza, perché l'alleanza tra i due partiti, diciamo moderati, li chiamiamo così, sicuramente moderati nei voti, ne prendono non ha, rischia di non avere i numeri, come esattamente come è accaduto per la grosse coalizione tedesca. Allora ci fermiamo con il fritto misto e ci dà tutte le notizie del giorno e le commentiamo insieme con te, Tommaso. La gestione degli SMS è stata una cosa scandalosa, perché ad Amatrice, a Cumoli non è arrivato niente, e questo secondo me è stato un grave sbaglio, perché generano nelle persone la convinzione che nulla è vero, ma non perché non sono arrivati i soldi a Amatrice. Lo avete riconosciuto, Sergio Pirozzi, sindaco di Amatrice, ha suscitato scandalo, rabbia, molti messaggi di gente che dice io non sottoscriverò più neanche un centesimo, c'è polemica, ma forse questo è il lancio di Pirozzi come possibile candidato, pensate nella regione Lazio. Non dite niente a Crozza di questa questione, credi, però rimanga tra di noi. Allora, quando venga Renzo Sera a presenza del Consiglio, c'è il solito tourbillon delle stanze e mi assegnarono una stanza. In quella stanza, casualmente, diciamo, posto del capoccione, la stanza era, diciamo, con la scrivania di Mussolini, ministro degli esteri. Ora no, ed è tutto casuale, non sto scherzando, era tutto casuale. Capoccione, diciamo, scrivania di Mussolini, ministro degli esteri. Questo è il racconto di Marco Minniti, il ministro dell'interno che piace alla destra e ha preso gli applausi della festa di Atreju, poi raccontando anche questo aneddoto che sta nella parodia di Crozza ed è quello di aver incontrato, pensate, un cimedio del Duce. Ale. Ispirato Domenico ha preso lo 0,31 dei voti, quindi 102. Poi, fra Licciardi e Andrea Davide, 168, Cicchetti Vincenzo, 374, Zordan Marco, 373, Novi Gianmarco, 543, Pisetto Nadia, 1410, Fattori Elena, 3596 e un certo Luigi Di Maio, 30.936. Il conteggio dei sette nani fatto da Beppe Grillo fra i candidati piccoli di piccola statura del Movimento 5 Stelle, lo sapete, la notizia del weekend, la vittoria di Luigi Di Maio investito, ma come vedremo anche con qualche luce, qualche ombra, qualche dissenso, quello di Fico, il grande avversario che resta nell'ombra e dice non sei tu il capo. Non è difficile da capire. Siamo diversi, siamo diversi. Io per prima mi sono guardato e ho detto, papà, ma te vuoi candidare? Vuoi andare a far premier? Te? E questo lo condivideranno anche i nostri avversari. Ho pensato, mando vai. Cioè... siamo alla leggenda. Poi Tommaso te la faccio risentire perché il monologo di Paola Taverna in romanesco, posato, tonale, con se stesso, è veramente una pagina di alta letteratura politica. Di barzellettieri e comici questo paese ne ha avuti abbastanza. È il tempo della competenza. Noi dobbiamo portare l'Italia nel futuro, non vincere il concorso per la barzelletta più simpatica. Entriamo negli ultimi sei mesi di questa legislatura. O vincono loro, i populisti, quelli che urlano, o vinciamo noi? Il comizio conclusivo di Matteo Renzi, torna il noi, tornano i toni di un Renzi più meditato, più serio, vedremo se più efficace. E poi Angelona. Und das will ich noch hinzufügen ist nach 12 Jahren Regierungsverantwortung durch die Union. Alles andere als selbstverständlich, dass wir wieder stärkste Kraft geworden sind. Avete capito, no? Contenta, ma non troppo. Speravamo in un risultato migliore. E poi Valentino Rossi, la leggenda. Naturalmente è molto di più la soddisfazione di esserci stato. E una settimana fa erano più le possibilità di guardare la casa, ecco. Allora, rieccoci col direttore dell'Espresso, Tommaso Cerno, il suo ultimo libro a noi di questi tempi quasi profetico. La prima valutazione su quello che abbiamo sentito nel fritto misto, Minniti, prende gli applausi della festa di Atreju, i ragazzi della Meloni, scherza sulla scrivania del Duce, è un nuovo leader. Beh, Minniti sicuramente è l'unico fenomeno politico nuovo dopo il 4 dicembre, dopo la sconfitta di Renzi al referendum sulla riforma costituzionale, ed è un fenomeno politico che ha dato al Paese la sensazione che qualche cosa si potesse fare per mostrare la non inefficienza, inutilità totale della politica rispetto alle grandi problematiche internazionali che investono il Paese ormai da anni. In tema di immigrazione, lui in pochi giorni ha modificato il clima. Perché questo diventi una leadership politica o diventi qualcosa che ascrive a Minniti e al partito di Minniti, in questo caso il PD, voti diversi da quelli che chi già è disposto a votarlo era pronto a dare, non è sufficiente la simpatia e non è sufficiente l'essere diventato personaggio, è sufficiente rispondere a una domanda alla quale Minniti non può rispondere da solo, e cioè se questo, diciamo, se questa azione del suo governo mescolata a questo temperamento indubbiamente forte e a questa competenza che lui sta mostrando, che viene da anni di politica in seconda fila ma molto, come dire, seria rispetto ai temi della sicurezza, della gestione degli interni, della gestione delle emergenze, ha come pasta, diciamo, come ingrediente base una ricetta abbastanza destrosa, cioè una ricetta che somiglia molto a un no, a un muro, magari non di mattoni ma di gomma, e quindi somiglia a quello che da anni sta dicendo una certa destra italiana e che secondo la sinistra non porta alla risoluzione del problema ma solo a respirare qualche boccata d'ossigeno in più, o se mescolato a questo ci sarà assieme all'Europa un grande piano di intervento in Africa e la ricollocazione dell'Italia al centro del nuovo mondo, dove la Germania, come abbiamo visto, conta un po' meno, l'Europa del Nord conta un po' meno e il Mediterraneo è sempre più strategico come visione internazionale. Se Minniti riuscirà a portarsi dietro loro verso questa visione, la sinistra potrà farlo proprio e spiegare al suo popolo che la parola sicurezza e la parola accoglienza, ospitalità, integrazione, tentativo di convivenza non sono ossimori. Se non riuscirà, sarà l'ennesima corrente destinata a rompere o a dividere una sinistra già divisa in mille parti. Anche Pirozzi è un nuovo piccolo leader che avanza, il sindaco di Amatrice? Ma lo vuole essere, almeno a parole. Io vengo da una terra di terremoto, perché sono nato in Friuli pochi mesi prima del terremoto del 76, e gli do un consiglio, lo utilizzi fatti così estremi e così gravi con molta pacatezza, perché i terremoti rimangono dentro la vita della gente per decenni, sono scosse interiori che sul momento ti possono dare l'impressione di cavalcare quell'onda che prima sottoterra ha distrutto tutto e oggi può nel nome di qualcuno ricostruire, ma serve un enorme rispetto e distacco dalla vita quotidiana delle persone che si sono trovate improvvisamente a non avere più un luogo dove riconoscersi. Quindi deve fare molta attenzione a ciò che fa, a ciò che dice, perché il terremoto può colpire anche due volte, nel senso può colpire la terra e poi può colpire l'animo. Strade molto di questo tipo di atteggiamento nei confronti di chi si arrampica sulle calamità naturali. Allora, le strade, torniamo subito dopo per valutare la Germania e l'Italia. "24 Mattino" I già svegli. A Radio 24 c'è Luca Telese, una volta al mese. No, tutti i giorni di primo mattino c'è anche Oscar Giannino. Sono già sveglio per dare ai miei clienti una buona tazza di caffè, una brioche, un po' di burro e marmellata, e per rendere il loro mattino un po' più gradevole prima che loro vanno a lavorare. Ma io purtroppo comincio prima di loro. verso le 5.45. Ah, quindi proprio un insonne, per seguire tutti i tavoli della sua vita, si sveglia molto presto. No, ma non presto. È questo, è che a una certa età si dorme non più di 4 ore, massimo 5, è fisiologico. Salve, volevo parlare del discorso delle pensioni. Sono sempre io, salve. Io quando cominciai a lavorare, dopo 40 anni, no scusi, nel 74, che lo sto dicendo. Salve, piace, sono sempre io, da Firenze. E dunque, parlando di mio nonno, 1892-1961, salve, sono sempre io da Firenze. Comunque, salute, salve, buon lavoro, arrivederci. E il nostro ascoltatore di Firenze si è svegliato molto presto, ha scritto tanto, ha raccontato tanto alla nostra segreteria. Fatelo 02465244492. Tommaso Cerno, normalmente a che ora si sveglia? Ma le 6.40 per parlare con te. No, normalmente. Ma normalmente mi sveglio abbastanza presto, indipendentemente dall'ora del sonno. Questa è la gravità del tutto, perché se tu riesci a dormire 8 ore, puoi andare a dormire quello che vuoi. Se riesci a dormirne poche fino alle 8, devi andare a dormire a una distanza delle 8 sufficiente per dire di aver dormito. Quindi capita che dorma poco. Insonne, bene, bene. Allora, facciamo il cambio di tema per entrare dentro questa giornata a 5 stelle di nuovo con quella bellissima Paola Taverna. Non è difficile da capire. Siamo diversi. Siamo diversi, io per prima mi sono guardato e ho detto: papà, ma te vuoi candidare? Vuoi andare a far premier? Te? E questo lo condivideranno anche i nostri avversari. Ho pensato, mando vai, cioè... mando vai. Allora, Tommaso Cerno, dove va la Taverna, ma soprattutto dove vanno i 5 Stelle? E l'esito un po' scontato di Di Maio ha lasciato una scia di dibattito, di incertezza, anche qualche ruggine dentro il Movimento 5 Stelle. Che ne pensi? Beh, sì. Beh, intanto penso che questo sia naturale, nel senso che il processo Di Maio, come dire, è un processo di parlamentarizzazione dei 5 Stelle. In questi anni il partito che veniva dalla strada, che veniva, come dire, dal no, che veniva da una rabbia generalizzata contro un sistema, si è fatto parzialmente sistema. Lo si vede dove governa meglio e dove governa meno bene, e lo si vede dai toni che esso assume e che hanno come necessità un leader che possa sedere in Parlamento, non un leader che possa, come Grillo ha fatto, negare se stesso o negare tutto ciò su cui ha fondato quel consenso, stando non si capisce bene in che luogo, non tanto fisico quanto mentale, del suo elettorato. Quindi è chiaro che è un processo di trasformazione, di movimento in partito per partecipare a pieno titolo alle elezioni politiche italiane. Ti fermo questo solo un secondo. È un processo di miglioramento. Ti fermo solo un secondo, Tommaso, perché abbiamo trovato Udo Gumpel, che è un corrispondente che tutti conoscono, un corrispondente tedesco, ed è l'uomo migliore per capire il senso di questo voto. Allora, buongiorno Udo. Sì, buongiorno a voi, buongiorno. Quindi buongiorno. Per te inizia una grande giornata di interpretazione, e aggiungi qualcosa anche tu a quello che ha detto Tommaso. Vince a destra, perde la Merkel perché è stata punita sulle politiche dell'immigrazione e l'apertura ai migranti siriani, e questa la lettura che danno i giornali italiani, ti convince? È un parzialmente vero, perché il milione di migranti che sono venuti ha dato, diciamo, la stura, è stata una specie di iniezione, però il malcontento rispetto alla Merkel ha delle radici diverse e più profonde. È un malcontento anche rispetto allo stile del suo governo negli ultimi 4 anni, che era in pratica anche lo slogan del tipo: stiamo tutti bene, siate tranquilli, non è successo niente. Cioè, quello che è ben visto all'estero, nel mondo, nella sua figura internazionale, la mano calma, la tranquillità, in Germania è stato criticato fortemente. Dunque lei e il partner socialdemocratico avevano più di 2/3 del voto popolare, ovvero governavano col 66-67%, era una schiacciante maggioranza, è scesa a valori minimi, no? Perché per questo sì, è stato punita. Bocciata la grande coalizione. Ha dato l'inizio a questa protesta, però bisogna anche considerare, ed è per questo una delle ragioni per cui credo che si sconfierà nei prossimi anni questa protesta, perché la immigrazione necessitava o necessita una integrazione di queste persone. Fra che sono poco arrivate, che, racconterò. No, una integrazione, scusate se finisco il concetto, sì. Questa integrazione sta funzionando abbastanza bene in Germania, dunque la protesta è più larga, ma certo la migrazione, la grande immigrazione ha dato l'inizio alla protesta. Fra poco racconterò nei tanti pezzi che ci sono sui giornali i vincitori in dubbi di questo duello, che sono ovviamente i rappresentanti della Forza Nuova, l'estrema destra che entra in Parlamento, l'Alleanza per la Germania. Qual è il ritratto che ne fai tu? Guarda, io direi, hai detto bene, i vincitori, e secondo me non è solo AfD un vincitore. Vincitore sono anche i liberali, che entra con una forza sopra del 10%, come ai bei tempi loro, e che sono una forza liberale, europea, internazionale, anche di antiche radici in Germania. Questo è molto importante, di non concentrarsi soltanto su un partito che ha preso il 12,6% come l'AfD, che è preoccupante per le venature naziste, perché è oltre la estrema destra, oltre la xenofobia normale. C'è molta nostalgia. Ma c'è se il candidato signor Alexander Gauland del partito dice che bisogna ristabilire l'onore dei soldati tedeschi nella seconda guerra mondiale, che erano valorosi, io vorrei sapere in che cosa consiste l'azione valorosa militarmente da adorare nello sterminio di migliaia di persone anche in Italia, no? Certo, militarmente a Sant'Anna di Stazzema, a Marzabotta hanno fatto un lavoro veramente eccellente. Però hanno ucciso 2000 civili, erano l'arma di un folle assassino che è costato al mondo 70 milioni di morti. Grazie, Uto. Allora, questo è da tenere sempre presente, no? Perciò io dico venature naziste ed è ancora una espressione simpatica. Grazie, ne parlo fra poco. Tommaso, la copertina dell'Espresso, ingiustizia, e poi l'altro tema, VatiLeaks atto terzo con l'inchiesta di Emiliano Fittipaldi. Un numero centrato ancora su questa vicenda del Vaticano, su cui continuano a uscire notizie, rivelazioni. Sì. Sì, la cosa divertente è che rispetto ai primi VatiLeaks, qui sono più interessanti i documenti apocrifi di quelli autentici. Cioè, dopo aver letto quelli autentici che ci hanno mostrato il retroscena di personaggi come il cardinale Bertone, dell'utilizzo di denaro in Vaticano che lo stesso pontefice ha contestato e con forza poi ha impedito continuasse, siamo alla vigilia, o sembra essere alla vigilia, dell'utilizzo di documenti non falsi, nel senso che non hanno un'esistenza, ma che nascono in Vaticano non con la finalità di descrivere cose avvenute e mostrarle all'opinione pubblica, ma di costruire una rete di ricatti interna tra gruppi di potere che si apprestano a preparare una grande sfida, e la grande sfida del Vaticano è sempre quella della grande successione, e come sappiamo la Chiesa non guarda dall'oggi al domani, ma guarda in una prospettiva. E quindi fantasmi del passato, dubbi, notizie parzialmente vere, parzialmente false, si mescolano e ci ridanno la sensazione di un pontificato che ha più problemi all'interno, un po' come la Merkel, di quanti ne abbia nella sua grande immagine pubblica, nella sua immagine apostolica. È una bella fotografia. Buongiorno Telese Cerno, ci dice Roberto. Buongiorno a te, Roberto. Ciao Tommaso, ci vediamo fra poco, rassegna stampa. Ciao papà, sei obeso.